Andiamo a Metpusten, vida mia maisa maclada, maclada dalles urres, tot en flur de la paina, maclada dalles urres, dins salit a jantar, amor, mi amor, mo abra la finestra que date en la noche, amor, mi amor, mo envida il fieu en chas, era colia dals xanars en flomada mai, in abuna per tai, era colia buna per te. Ediam a Metpusten, vida mia mais amaclada, maclada scoinaz en la charge, portla cun calma. Portla cun calma ils fastidis da la notte, amor, mi amor, mo abra la finestra che date in la notte, amor, mi amor, mo invida il fieu en chas, e raccoglia dals scianas en flomma da mai, in abuna per te. Colia dals, ci andar sempre un mare.